storia che passa, c'è qualche cosa che resta in fondo al cuore o nell'anima e che si ferma lì. In questa fine di agosto mi sembra sempre la stessa, i tuoi occhi sbarrati davanti a me e vorrei dirti basta. E non so scappare, non so morire, proverò a sentirti forte dentro di me, come se fosse un sogno incontrollabile, giorni che crolla tutto e forse crolli tu, giorni che con la rabbia poi mi tiro su. E adesso vuoi che ti guardi mentre mi dici di amarmi, ma poi decidi da sola ciò che vuoi, forse provo ad odiarti. E mentre parli tu piangi e senti addosso i miei sogni che si infrangono ad ogni parola tua, e vorrei dirti basta, ma non so, sbarrati davanti a me e vorrei dirti basta.